problema per i detenuti e per i detenuti che diventano ex detenuti è un problema di in parte di reinserimento o in parte di inserimento nel mondo del lavoro, perché si tratta per la grande parte di persone che non hanno alle spalle esperienze lavorative significative sia in termini di durata che in termini di qualità del lavoro, e si tratta in gran parte di persone che hanno poche o nulle risorse relazionali, sociali, ma anche formative. Si tratta di persone che spesso, frequentemente, non hanno neanche assolto l'obbligo scolastico. Non è facile per un detenuto trovare lavoro, anche perché ovviamente è un ex detenuto e su questa cosa pesa, diciamo, il giudizio dei potenziali datori di lavoro. Sicuramente questo è un campo su cui le amministrazioni pubbliche, le istituzioni pubbliche possono svolgere un ruolo, diciamo così, in qualche modo di crescita, di fiducia negli interlocutori, di promozione nei confronti di questi soggetti, appunto, di una politica per l'inserimento lavorativo. E queste sono le condizioni di maggiore difficoltà. Ovviamente l'inserimento nel mondo lavorativo è una precondizione molto importante, perché queste persone uscite dal carcere non abbiano necessità di commettere reati che possano riportarli in carcere. E da questo punto di vista le esperienze più significative che vanno maturando sono esperienze che vedono coinvolte insieme il mondo della cooperazione sociale del terzo settore, il mondo degli enti locali che operano sul territorio e in alcuni casi anche delle organizzazioni d'impresa. Questo per esempio è il caso dell'esperienza milanese, appunto, che ha dato vita all'AGI, solo un'agenzia di solidarietà che è appunto impegnata in questo campo.